buongiorno. Ciao Pierluigi, ciao. Non mi ricordo come ti chiami. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. C'è l'impallo che favorisce Amsic. Dentro c'è Higuain. Amsic, una contro uno. E cross in mezzo, Higuain! Higuain! Higuain! Il pipita! Minuto 42. 2-1 Napoli. Parte di Pala! La gioia della Juve! Di Pala al quindicesimo! Insieme a lei che non che viene con romanticismo. Diventa buona per Higuain, per Higuain, per Higuain! 3-1 Napoli! È qui la festa! Steiner, Mandžukić è già davanti in area di rigore. Super Mario Mandžukić a terra, calcio di rigore. E credo rosso perché è chiara occasione da gol. Parte l'argentino. Dybala! Nel segno di Dybala! Necesita reggaeton, dale. Al ritmo de que dobbiamo continuare così, siamo in un buon momento e dobbiamo sfruttarlo. Ho detto prima, dobbiamo riposare per martedì e l'importante è continuare così. Sto lavorando, sto con fiducia, grazie al mister, grazie ai compagni, grazie alla società e bueno, devo continuare così. Sì, oggi è una grandissima giornata per tutti. Come hai detto te, siamo secondi in classifica a 2 punti in Napoli. Sappiamo che mancano tante partite, però il campionato passa veloce e dobbiamo continuare così. 1, 2, 3, let's go. Ragazzi, più che mai si parla argentino. L'argentino di Higuain, quello di Dybala. Qualcuno fa notare oggi come il Tata Martino, seduto su una poltrona e sorseggiando il mate, se la gode, guardando questi due fenomeni. 800 24 00 24 è il numero verde, perché oggi più che mai vi convoco tutti quanti, insieme a Giorgio De Luca, il nostro autore, a Gianmarco Ferronati in regia, Federico Bini in redazione. Pardo arriva tra un attimo. Oggi perché il campionato ha un'altra faccia, dopo le promesse di equilibrio e di una lunga battaglia di trincea tra eserciti contrapposti e ugualmente forti, ci troviamo invece ad un duello sotto il sole, quello tra Napoli e Juventus, mentre l'Inter prova a stare aggrappata con le unghie al tetto del treno scudetto, e poi ci sono la Roma e la Fiorentina. La Roma cade definitivamente, io credo, dal treno dello scudetto, che era forse soltanto un'illusione, con il solito copione. Vi leggo solo un numero: 29.709 spettatori, compresi gli abbonati, 6.003 paganti per la partita del debutto di Spalletti, che è stata identica a quelle alle ultime esibizioni che abbiamo visto con Garcia, identica dal punto di vista calcistico, emotivo, del risultato e della partecipazione del pubblico, e cioè fischi alla fine. Sentiamo Spalletti. Pjanic è stato nella posizione che gli ho chiesto, Daniele uguale, però poi quando hanno riconquistato palla, hanno verticalizzato addosso alle punte, siamo stati sempre costretti a rifare 80-90 metri di campo, che era una cosa che non doveva succedere vista la differenza di qualità di squadra che c'è. Dunque, questa era Spalletti. Poi c'è la Fiorentina che cade a Milano denunciando i propri limiti strutturali, che sono anche naturali, cioè quando vengono a mancare titolari importanti, Badri ed altri, la Fiorentina si scioglie un po'. È un momento difficile per i Viola, dall'altra parte è un momento in cui il Milan vive un lunedì felice, ma sappiamo bene come nell'alternanza delle emozioni rossonere di questo campionato i lunedì felici siano spesso seguiti da dei lunedì di grande polemica. Insomma, Mihajlovic per il momento resta, ovviamente continua a camminare sopra il suo filo. Piuttosto sorprendono gli striscioni a Firenze di proteste e di denuncia contro i Della Valle, dopo un campionato fin qui, dopo 20 giornate, meraviglioso, in cui Firenze ha potuto sognare lo scudetto e magari continua a farlo ora, o comunque continua e continuerà legittimamente a pensare ad un posto in Champions League. Questa mattina sono apparsi appunto striscioni inspiegabili di contestazione alla famiglia Della Valle, invitata a lasciare. Ma come? Con questo campionato e con questa Fiorentina? Questo fa un po' il paio con una delle notizie della domenica, cioè la denuncia di Gasperini, che vince con su Genova in grandi difficoltà e nel segno di Pavoletti qualcuno vorrebbe in nazionale. Ma Gasperini, e io voglio fare una maglietta, noi stiamo con Gasperini, almeno io sto con Gasperini, non so quanti di voi. Gasperini denuncia, fa nomi e cognomi degli ultra che non vestono la sciarpa del Genoa, ma non vogliono così tanto bene alla squadra del Grifone. Ho un concetto dei tifosi del Genoa molto più alto che di Leo Pizzi o di del Cobra o di Traverso. Credo che la gradinata sia una cosa migliore. Io quando ho visto questi mi è venuto in mente Criscito, mi sono venute in mente le magliette di Sculli. Dunque avete sentito queste le parole di Gasperini, e io ripeto, faccio una maglietta, sto col Gasp. Ci fermiamo per il traffico, poi proveremo a vivere questo lungo duello che secondo me sarà tale tra la Juventus e il Napoli, che tra l'altro si affronteranno il giorno prima di San Valentino, il sabato 13 di febbraio, il giorno della finale del Festival di Sanremo. Ma io credo sarà un bel duello tra il Festival di Sanremo e la partita scudetto. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Io quando ho indossato la maglia bianconera, si andava su ogni campo, era la partita dell'anno. Tutti con i coltelli tra i denti, qualche pistola nascosta nei pantaloncini. Invece ho quasi l'impressione che chi ti incontra, per tua fortuna, ecco che dice: vabbè, questa la perdiamo, intanto pensiamo alla prossima. No, non sono d'accordo. Diciamo che ci sono i meriti della Juventus, perché a Genova la Sampdoria ci ha dato il filo da torcere fino alla fine, anche se noi ci abbiamo messo un po' del nostro. A Carpi lo stesso, ci abbiamo messo il nostro una partita chiusa. Duetto Marocchi Allegri su Sky. Come non mai vi convoco tutti. 800 24 00 24. Parli in arrivo, già arrivati invece telefonicamente in ordine di classifica. Boris Sollazzo, buongiorno. Buongiorno, siamo salvi. Questa è la tecnicamente. Vai a farti bene a dire. Claudio Comunque, Zuliani. L'ha detto Marocchi, Sì. Vabbè. Claudio Zuliani, buongiorno. Buongiorno, siamo campioni d'Italia per la quinta volta, buongiorno. D'accordo. Allora guarda, cominciamo bene, perché Sollazzo è salvo, Zuliani è campione d'Italia, siamo messi benissimo. Siamo messi così, io sono d'accordo con Zuliani. Allora perché Juventus, Sollazzo? Per me è Juventus, ma perché? No, adesso perché? Fuori da tutto, perché? È la squadra che ha il Napoli ha un grande campione e un bellissimo collettivo. La Juventus ha un grande allenatore come il Napoli, ha un grande campione e in più ha una squadra in cui se non gioca Pogba arriva Khedira, cioè se non gioca Barzagli c'è un Rugani che è già la seconda volta che si fa valere alla grande, cioè è una squadra più completa, una squadra che lì su ci sa stare, che non sente le vertigini, che ne vince 10 di seguito. E poi lo dice Marocchi da ex juventino. Diciamo che le squadre non si impegnano tanto, devo dire. Ah, non adesso si impegnano tanto, dice. Devo dire pure la verità. Da una parte non si impegnano tanto, ma se vi ricordate succedeva anche alla Roma delle 10 partite. Quando si vince, si vincono tutte le partite che si devono vincere, le altre squadre scendono anche con la doverosa paura. Cioè io ricordo anche il Napoli di Maradona che vinceva le partite 4-0 nel primo tempo. Cioè è inevitabile che quelle squadre abbiano paura. Il Napoli lo sanno che magari ogni tanto invece Bologna, il Napoli non fa paura. Il Napoli non fa paura. Saluto Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Ciao. Siamo già in pieno duello, Con Sollazzo già ho capito dove andare a parare, Marocchi? C'è Sollazzo che dice che è salvo e Zuliani che dice che è campione per la quinta volta. Io passo la palla direttamente a Zuliani dopo quanto ha detto Sollazzo e poi interviene l'arbitro. No, lo stopperone Pardo, come dice Sacchi. Ma dimmi, guarda, io non è che cambio idea, da Sassuolo, quando abbiamo perso, che la gente rideva, che eravamo dodicesimi, che ho detto che vincevamo lo scudetto, quindi non è che cambio idea adesso. No, volevo ricordare al signor Marocchi, che ha la memoria corta, che anche il Frosinone allora con Napoli si è spostato, e che l'Udinese ha preso 4 pere anche con l'Inter, ma nessuno gli ha detto che si è scansata. Come mai? No, io adesso non ho sentito Marocchi. No, io sull'Inter l'ho detto, su Udinese-Inter l'ho detto, Frosinone non si è spostato, il Frosinone ha preso 4 pere col Torino, è proprio una squadra scarsa. Fatemi intervenire Pardo a rimettere ordine. Marocchi per pensare che possa sostenere che ci sia un dolo. Semmai ci può essere. Ma non ha sostenuto un dolo, Piero. Appunto, semmai ci può essere nei confronti delle grandissime squadre. La Juve lo è da un po', il Napoli lo sta diventando e lo è già adesso. In certe circostanze, una tale sudditanza che in qualche caso delle squadre deboli entrano in campo già battute. Questo ci può essere. Questo ci può stare. Sul colpo di testa di Khedira ammirano talmente tanto le giocate da campioni che si fermano proprio. Sono come i giocatori del Frosinone quando vedono Higuaín. Giuliani, però ti voglio bene, ma tra Frosinone e Udinese ci passa un'autostrada, onestamente. Hai ragione. La famosa Udinese ha appena vinto la Champions League, Udinese, quindi lo squadrone. Ragazzi, ma sono gli episodi della partita, allora cosa vogliamo dire? Che il Cardi a momenti pareggia con la Juve, quindi è uno squadrone rispetto all'Udinese, che la Sampdoria a momenti pareggiava con la Juve alla fine. Cioè, parliamo di calcio. Io sono d'accordo con Giuliani, parliamo di calcio. Un attimo, uno per volta, perché siamo in radio e se no ci sovrapponiamo tutti e facciamo solo un gran casino. Pardo. Recentemente ho fatto Carpi-Juve e Sampdoria-Juve. Sono state due partite in cui la squadra rivale della Juve, ancorché battuta, ha fatto una buona partita. E negli ultimi 5 minuti. Negli ultimi 5 minuti. Carpi è andato in vantaggio con la Juve, E poi ha preso 3 e poi non gli ho capito, ma il Carpi ne prende 3 con la Juve, perché una è il Carpi e l'altra la Juve, però pensare che il Carpi abbia subito 3 gol contro la Juve perché volesse perdere o perché mi sembra una follia, francamente. No, ma siamo tutti d'accordo, credo, nel senso che appunto quando una squadra è grande e asfalta tutti, alcuni scendono in campo con la paura, è inevitabile, credo. Sì, ma scusa Boris, questo può valere anche per il Napoli, cioè, Napoli è primo in classifica al giocatore vale più forte d'Italia, cioè che c'è Napoli in Italia. Per il Napoli vale un po' meno, perché appunto poi si dimostra che se va a Carpi magari non vince, se va a Bologna perde. Ma non è mica colpa nostra, siete più scarsi, abbi pazienza. Non escludo che in futuro, dopo la prova di forza con alcune squadre, anche al Napoli possa succedere. Io credo che Marocchi non abbia nemmeno... Pazienza, quindi fammi capire, da quando c'è lo Juventus Stadium, Juventus-Napoli è stato 3-0, 2-0, 3-0, 3-1, quindi voi vi siete scansati, no? E anche il prossimo sarà 4-0 sicuramente. No, il prossimo sarà 3-1 ancora. Sarà 3-1. Quindi vi scansate sempre, fammi capire che ragionamento è. Aspetta un attimo, fammi sentire una cosa. Boris, vai avanti tu. Bella. Non la sporco io, ma canta. Possiamo però rendere onore agli ultras dell'Aquila, perché è loro il coro. E infatti finisce con Difendo l'Aquila ed è un coro bellissimo, secondo me, fantastico. È alla faccia di Boban, io la canto tutte le volte, la festeggio tutte le volte e Difendo la città me la godo. A proposito, cosa ha detto Boban ieri? L'ultima di Boban. Poi il giro di campo si fa alla fine, poi dopo l'Inter dai, ci può anche stare, una festa generale, ci siamo anche noi, una volta lo puoi anche dimostrare, non sapevamo ovviamente per la tradizione della canzone, che è fantastica e che continua. No, perché poi divertimento allora, rafforzamento, è bello, poi il calore è tutto a posto. Gli amici napoletani devono sapere, insomma, che tu sei un uomo di calcio, che hai vinto tanto. Bravo. E quindi pensi anche a quello, che il Napoli ma può vincere, allora lui vuole che mantengano la concentrazione. Bravo. Non è esattamente il più amato in questo momento Boban a Napoli. No, ma posso dire questa cosa. Dilla. Questa cosa io la trovo insopportabile. Anch'io abbastanza. No, io trovo insopportabile. Serra l'altro giorno, mi pare sabato o venerdì, ha scritto un'amaca su Repubblica, secondo me assolutamente perfetta, su come in quest'epoca qui tutto diventa improvvisamente o di qua o di là. Boban non ha mica detto, non ha mica inneggiato al Vesuvio. Boban ha fatto un commento che io non condivido, perché io sono dell'idea che Napoli sia una città che invece con la sua energia, con il suo amore, con la sua dinamica, e lo ribadisco qui su una radio nazionale, io adoro Napoli, mi fa impazzire, tutte le volte che ci vado la trovo bellissima e spesso la trovo molto diversa dallo stereotipo, quindi lo dico senza se e senza ma. Però Boban non è che ha detto una cosa perché ce l'ha con Napoli, Boban ha detto una cosa in assoluta buona fede, dalla sua esperienza di calciatore. E adesso sentir dire alla faccia di Boban, pure tu Boris, io te voglio bene, sei un intellettuale raffinato, non ci prestiamo a questa roba qui, perché se no Mentana fa una battuta venuta male, da Del Pulcinella ad Auriemma, ce l'ha con Auriemma e succede un casino per giorni. Cioè, non è che Gianluigi, diventa il Gianluigi, di Napoli, ma stiamo parlando di calcio e ci stiamo divertendo. Allora, io sono convintissimo che Marocchi non abbia inteso niente in malafede, sono convintissimo che Boban abbia fatto una battuta, sono convinto che Mentana si sia scivolato su una buccia di banana, però nel calcio ci sta anche lo sfottò, quindi se qualcuno secondo me fa una gaffa come la fa Boban, io la sottolineo, dico semplicemente che ma non è una gaffa, per snobismo, non capisce che quel coro e quel festeggiamento è semplicemente un rinsaldarsi tra il tifo e la squadra. Certo, certo. Aspetta. Sono completamente d'accordo con te sulla sostanza. È un ringraziamento ai tifosi, Boris, che probabilmente è anche un modo diverso di vivere il calcio rispetto a quello di Boban e rispetto anche a quello di Zuliani. Il giro di campo si fa quando lo fa la Juventus, Claudio? Cioè, ma a me piace anche quando tutte le domeniche quando vince in casa in trasferta. Fa come fanno a Napoli? Tutte le domeniche quando vince in casa in trasferta fa il giro. E allora perché questo viene sottolineato a Napoli e non a Torino? Ma no, tutte le squadre che vincono vanno sotto la curva. Ma infatti, io non sono d'accordo con Boban, lo ribadisco. Però mi sta molto sulle palle quest'idea che se uno dice una battuta, sbaglia una battuta, o in questo caso secondo me neanche la sbaglia, nel senso che Boban ha detto una cosa sensata, che io non condivido, ma che è sensata, che ha una sua ragionevolezza, e se vogliamo è anche un consiglio a fin di bene, cioè è anche un contributo, è quello di cui parlava Sarri l'altro giorno, la differenza fra euforia e entusiasmo, quindi se vogliamo è un consiglio da amico che sta dando al Napoli, non è certamente una cosa contro Napoli. Però io non ho visto Boban criticare Mihajlovic per l'esultanza dopo Milan-Fiorentina. Boris, superiamo questo punto. Lo critica ogni volta Boban, non devo fare l'avvocato difensore di Boban. Ragazzi, superiamo questo punto e torniamo a un ultimo confronto tra Zuliani e Sollazzo. Ad entrambi chiedo, cominciando da Claudio Zuliani, l'Inter fa ancora paura o è duello Juventus-Napoli? Non ho capito la domanda, chi? L'Inter. Non lo so, io sto guardando quella che supero la prossima partita, non, dietro non vedo già più. Quindi è un duello che il 13 febbraio, il giorno della finale del Festival di Sanremo, vivrà un momento decisivo. Come, è così, Claudio? Come ho detto al mio amico Auriemma, che sarò contento di rivedere allo stadio il 13 febbraio, lui festeggerà San Valentino, io il campionato, così festeggiamo tutti e due. Ah, quindi per te è già finito. Quindi è finito il duello? Perché, è finito, questione di tempo. Poi vinceremo con 10 punti di vantaggio. Mm-hmm. È superiore come Rosa. Ma non lo sto dicendo, guarda che lo sto dicendo seriamente. Non sto scherzando. Secondo me la Juventus è superiore come Rosa. Vincerà. Senti, allora cosa dici ai tanti giornalisti? E sono tanti le penne illustri che dicevano che la Juventus era da sesto, settimo posto. Impossibile, le statistiche, la storia parla chiaro. Cosa rispondi? Niente, non dico niente. Dico la prossima volta di non ragionare partita per partita, ma ad aspettare un attimo. Insomma, guardiamo. Guarda che per dire il Napoli sta giocando benissimo, tra l'altro. A me piace anche vedere le partite del Napoli. Ma la Juventus gli ha rosicchiato 9 punti, non lo dice nessuno. No, non è che recupera solo gli altri. Lo sottolineiamo 3 volte. Senso, capisci? No, per cui no, vuol no, dire. No, no. Come no? No, no, no. Allora, dopo 4 giornate la Juventus, il Napoli stava un punto sopra la Juventus, adesso sta 2 punti sopra la ma Juventus. Stava anche 9 punti sopra. Ho capito, però questa è la verità. Abbiamo iniziato tutte e due male e poi alternativamente ci siamo rosicchiati punti, ma la verità è che dalla 4 giornate per adesso siamo un punto sopra. 9 punti avanti. No, no, alternativamente. Abbiamo dipende da quando la vedi, Giulia. Ma l'ultima volta che ero sotto ero di 9, adesso sono a 2, quindi... Quindi il ragionamento è questo. Claudio e Boris, allora, io vi ringrazio. Alla giornata ero 11, cioè, non sì, è che sì, matematica, sì, questo è un dato. E poi ci sono 10 vittorie consecutive e adesso sul treno sono rimaste queste due. Il senso è questo. Ringrazio Claudio Zuliani, Boris Sollazzo, con cui abbiamo iniziato i fuochi d'artificio questa puntata. Pierluigi Pardo sta con noi, 800 24 00 24. Venite a trovarci. Tra poco seguiremo tutto. Prima però, spot per noi. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Si ricomincia! Tutti convocati. L'obiettivo resta la Champions League o si può pensare allo scudetto? Il nostro obiettivo è sempre stato quello, ma se noi ci rimettiamo sulla strada giusta, ritorniamo ad essere, a non concedere gol, a regalare gol, perché i nostri sono stati 4 regali gli ultimi 4 gol, quindi a non regalare gol credo che possiamo rimetterci e stare in alto per molto tempo. È che la squadra ha tentato di fare le cose, ha reagito da un punto di vista nervoso, però ha continuato a fare un po' di confusione sotto l'aspetto dell'equilibrio, perché ci sono stati dei contropiedi da parte del Verona che noi non dovevamo prendere. Sulla consapevolezza che possiamo competere con tutti, come abbiamo riuscito a farlo fino a oggi, tutta la base che abbiamo fatto fino ad oggi sicuramente deve dare la serenità e esserci positivi per affrontare il futuro, perché sicuramente in una stagione questo succede perché hai giocatori che sono diffidati, hai giocatori che sono infortunati durante una stagione, e questo in certi determinati momenti ti possono rompere certe dinamiche di risultato e di prestazioni. Comunque hai una base sufficiente per affrontare sempre il futuro. E questo è il capitolo dei delusi della domenica, che è l'altra faccia della notizia domenicale, perché se abbiamo un duello che si profila tra Napoli e Juventus in ordine di classifica, ripeto, dall'altra parte abbiamo l'Inter che, ripeto, prova a stare aggrappata al treno dello scudetto con le unghie, la Roma e la Fiorentina che dopo aver perso col Milan forse sono cadute da quel treno. Per Luigi Pardo. Sì, io credo che il campionato si stia un po' riallineando a tutta una serie di... L'equilibrio cui ci eravamo abituati non esiste già più? Mi sembra che lo possiamo salutare, questo tipo di equilibrio. Possiamo salutare. E gli facciamo un grande in bocca al lupo. E un grazie per averci accompagnato per 20 giornate. Guarda, io penso questo, che Juve e Napoli siano le due squadre certamente più forti del campionato, e questa sensazione ce l'abbiamo da un po', dall'inizio dell'anno. Io, anche a costo di sembrare magari poco carino nei confronti dell'Inter, più volte ho detto che non la capivo fino in fondo, perché vedevo e intravedevo grande talento, premesso che l'Inter sta facendo un campionato eccezionale, sì, veramente eccezionale. Quindi e non la vedi, no? Più? Non no, la vedi più per lo scudetto? Io non l'ho mai vista, lo sai. No, nel senso che, nel senso che dicevo che non la capivo, perché quando una squadra senza giocare molto bene però vince tutte queste partite merita enorme rispetto, soprattutto dopo metà stagione. Una squadra che sta così in alto in classifica è impossibile pensare che possa avere soltanto avuto fortuna. La fortuna non esiste, soprattutto nel lungo periodo, quindi applausi all'Inter, perché sta facendo un campionato eccezionale. Però mi sembra che in queste ultime partite stiano venendo fuori un po' dei limiti di gioco che ci sono in pratica dall'inizio dell'anno. C'è stato un momento nel quale l'Inter dava la sensazione di essere cresciuta, un periodo fra novembre e l'inizio di dicembre nel quale l'Inter aveva dato veramente una dimostrazione di essere un progetto in crescita. Ecco, la crescita in questo momento si è arrestata, magari tornerà. È chiaro che la quantità di talento che ha a disposizione Mancini e la bravura di Mancini sono due cose che secondo me la tengono ancora assolutamente in corsa. Però sì, dovessi dirti che la squadra che mi è piaciuta di più lo dicevo tre mesi fa, figurati te lo dico adesso. Per me il Napoli gioca un calcio supersonico e la Juve è fortissima, quindi certo. io pensa a una sfida fra queste due. Sto provando a capire se ancora adesso possiamo pensare ad una sfida a tre o invece è davvero un duello faccia a faccia. Pierpaolo, provincia di Arezzo, 800240024, oppure messaggi di WhatsApp 349-238-6666. Pierpaolo, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, grazie della convocazione. Volevo fare due considerazioni sulla Juve. Sono milanista, però ecco, volevo dire, per quanto riguarda la frase di Marocchi, è anche vero che comunque chiunque gioca con la Juve vuol fare bella figura, anche se sono una squadra che magari rischio di retrocedere, quindi magari mi impegno affinché possa mettermi in luce sia come giocatore che come squadra. Quindi ecco, concordo fino a un certo punto su quello che diceva Marocchi. Sì, poi però non cadiamo in questo equivoco, però sì, perché no. Marocchi ha detto senza dolo le squadre che affrontano la Juventus, certo. No, si sentono talmente inferiori che finiscono per darla su. Questo ragionamento ha adombrato Marocchi. Non stiamo a fare dei romanzi su questa frase, eh? Pierpaolo, considerazione era più questa. In virtù, io appunto prima gufavo le italiane, ora invece sono molto per le italiane in Europa. In virtù di questa Juve così forte, possiamo sperare che possa in qualche modo lottare col Bayern a fine... Sperare quello che vogliamo è molto difficile. Possiamo sperare quello che vogliamo, no, magari, però, in quelle partite valuteremo la dimensione reale della Juventus, Pier. Sicuramente è chiaro che la sfida, forse a parte il Barcellona, è il sorteggio peggiore, e sicuramente insomma il Bayern è favorito, però insomma la Juve dà dei segnali in questo momento di grande forza, di grande compattezza, di grande qualità, quindi perché non sognare? Io credo che chiaramente, poi l'abbiamo detto mille volte, chi vuole gufare gufa, chi vuole tifare tifa, ci mancherebbe altro nella vita, ma che i tifosi della Juve debbano crederci, perché certo è un peccato enorme, è inutile che ci giriamo attorno, è un peccato enorme perché la Juve ha buttato via a Siviglia una qualificazione che secondo me, per la qualità complessiva che aveva dimostrato soprattutto nei due scontri diretti col Manchester City, meritava, cioè chiudere al primo posto. Non ci sono grandi dubbi da questo punto di vista, sì, però vabbè. È andata così, dobbiamo poi, fare. Poi adesso la prendiamo così, Bayern Monaco più forte, però ripeto, magari valuteremo anche la dimensione, il valore specifico, il peso specifico della forza della Juventus. Carmine, provincia di Como. Buongiorno Genta e Appardo. Senta, si parla di campionato equilibrato, no? Di un test a test fra Napoli e Juve, però in realtà, pur essendo io sostenitore del Napoli, bisogna riconoscere che la Juve ha una rosa e valori tecnici superiori. E come può il Napoli, secondo me, contendere a questa squadra lo scudetto fino alla fine? Rinunciando all'Europa League, perché i 5 dei 9 punti che la Juve ha succhiato al Napoli sono coincisi con durante la fase di qualificazione dei gironi. Sì, però stride un po', Carmine, perché il Napoli ha fatto ampio turnover in Europa League e si è qualificato a punteggio pieno. La Juventus ha lottato, sofferto fino alla fine, e alla fine non è riuscita a raggiungere, come diceva Pardo, il risultato di arrivare prima nel girone, quindi questo par strano. Io non rinuncerei a niente, però il ritorno delle coppe possono essere un fattore. Saluto e ringrazio Stefano Aragno e le faccio rispondere da lui. Ciao Stefano. Ciao. È normale che comunque sono due squadre che hanno le stesse competizioni. Forse il fatto di giocare in Europa League, che spesso e volentieri giochi il giovedì, e non è poco il fatto di avere magari un giorno in meno di riposo. Però devo dire che tutte e due le squadre sono attrezzate per poter fare turnover. È normale che la differenza tra le due squadre è la difesa. La Juventus, non dimentichiamo che la difesa della nazionale italiana è qualcosa, vuol dire il fatto di avere già una base, come aveva un tempo il Milan, il fatto di avere comunque una difesa impenetrabile, vuol dire che la differenza secondo me sta tutta lì. Senti, ma siamo al duello o vedi qualche possibilità di rientrare in questa corsa soprattutto da parte dell'Inter? Ma guarda, il campionato è lungo e sicuramente la differenza di punti non è abissale. È certo che come stanno giocando le squadre oggi sembra quasi impossibile che possano competere sia con Napoli che con Juventus. È normale che poi il calcio, sai, è bello proprio perché molte volte basta niente per poter cambiare comunque una stagione. Certo che le due squadre certamente più attrezzate, quelle che giocano con un calcio diverso dalle altre e stanno dando sicuramente continuità, sono queste due squadre che meritano comunque la posizione che stanno tenendo. Allora, ci fermiamo un secondo per il traffico, poi torniamo con Pierluigi Pardo e Stefano Aragno. Tutti convocati. Tutti convocati. Pierluigi, oggi è il giorno del pessimismo cosmico per gli interisti, per i romanisti, ma anche per i fiorentini. Ho detto prima della contestazione inspiegabile che c'è stata a Firenze nei confronti dei Della Valle. Sì, che cosa posso aggiungere? È una dimostrazione... No, è ovvio che tutti sognano, quindi poi c'è la mancanza del limite, no? C'è la... Firenze è un'altra città meravigliosa, con dei tifosi che vivono per la squadra, che vivono di calcio 365 giorni all'anno. La Fiorentina sta facendo molto bene, all'inizio dell'anno sembrava che dovesse faticare, questa contestazione già c'era stata quando stava cominciando la stagione, adesso torna a fronte di due sconfitte sicuramente pesanti che un po' ridimensionano. Sì, però leggi la classifica, credo Fiorentina, che l'avrebbero firmata ad occhi chiusi. Purtroppo, e questo lo dicevo qualche giorno fa, lo ribadisco, il calcio moderno è un calcio nel quale è molto molto difficile, se tu hai un terzo del fatturato della prima in classifica è molto difficile che tu possa vincere il campionato. Cioè oggi la Fiorentina che vince il campionato è una cosa difficilissima. Nel passato, prima che il calcio diventasse così tanto business, prima che la Champions League diventasse così tanto importante e avesse un effetto moltiplicatore dei soldi delle società, perché questo è un elemento fondamentale, no? Cioè, oggi sembra quasi un passo del Vangelo, cioè oggi dai ai ricchi, oggi i ricchi guadagnano sempre di più e i poveri guadagnano sempre di meno, perché c'è tutto un meccanismo che tende a moltiplicare le situazioni, il contrario di quello che succede nell'NBA, dove invece l'equilibrio, il salary cap, il meccanismo del draft cercano in qualche modo di riequilibrare tutto. Quindi la Fiorentina, che sta facendo un campionato eccezionale, è nelle 38 partite, come avevo già detto qualche settimana fa, ma non per portare sfiga, no, ma perché ci sono dei limiti di rotazione oggettivi. Ma la verità è che se oggi la Fiorentina chiudesse il campionato sarebbe stata un'impresa, ma è chiaro, e sarà un'impresa se arriverà quarta o quinta a pochi punti dal primo posto in classifica. Questo è chiaro, senza contare che con l'Inter magari se la può ancora giocare. È Stefano, triste che non ci sia oggi un Verona, una Samp, un Torino che può vincere il campionato. È molto triste, secondo me, rispetto al passato. Ma no? Questo è qui come altrove, da altre parti. Francia, da Paris Saint-Germain, Germania, siamo tutti sulla stessa barca. Dal punto di vista dell'equilibrio. Salvo l'Inghilterra, che però ha un sistema particolare. Stefano Aragno, oggi in Milan e Mihajlovic vivono un buon lunedì, il prossimo chissà, sempre appesi a un filo, dopo aver, come diceva Pardo, ha fondato una Fiorentina che ha dimostrato limiti oggettivi quantomeno nelle rotazioni, cioè quando vengono a mancare quegli straordinari 11 denuncia una un organico troppo corto per essere da corsa per lo scudetto. Beh, sicuramente la differenza la fanno proprio queste cose, i cambi, la rosa, il fatto che comunque pur avendo un'ottima squadra, ottimi giocatori che partono dall'inizio, però avere l'opportunità poi che con il cambio non si perda al 50%. In questo momento purtroppo la Fiorentina nei cambi ieri ci ha perso un po', ma non perché Rossi comunque è un giocatore straordinario, però sta passando un momento che ha bisogno di continuità, un giocatore che deve giocare, però si sta in questo momento può dare quello che può dare. A centrocampo il Suarez è lontano parente di quello che giocava, quello non è mai arrivato, quello vero non è mai arrivato. Esatto, perciò sai, comunque quando ti manca il centrocampo titolare fai un po' di fatica, però io torno a dire che la tifoseria fiorentina deve essere stracontenta, anche perché la Fiorentina va in tutti i campi d'Italia e impone il proprio gioco, e questo deve far rimanere contenti la Fiorentina, anche perché è partita secondo me non certo per arrivare al terzo o vincere lo scudetto. Sta facendo un ottimo campionato, e la stessa cosa è successa ieri, perché ha avuto il pallino del gioco 90 minuti, è normale che poi ha trovato una squadra cinica e poi con errori grossolani, prima su Tomovic, su Bacca, che ha permesso a lui dalla fascia sinistra di entrare dentro, anche se ti dico, la Fiorentina come gioca spesso e volentieri certi equilibri vengono a mancare, perché è più per il possesso palle, per far gioco, che non per difendersi, e molte volte sull'uno contro uno, se non hai giocatori di grandissimo livello, rischi di concedere l'avversario qualcosa. Esatto, prima di salutare Stefano Aragno, entrambi, cioè Stefano stesso e Pierluigi Pardo, faccio sentire una dichiarazione di un allenatore di una squadra a cui Aragno è molto affezionato, Gasperini. Altra dichiarazione di Gasperini. Voi spesso li identificate i tifosi del Genoa, io identifico i tifosi del Genoa in altro modo, non in queste persone con le quali ho avuto dei problemi, e quindi mi defilo, mi dispiace che pochi di voi lo fanno, anzi gli danno pure spazio e gli garantite pure della visibilità. Io mi metto da parte. Io quando Genoa perde sto molto male, invece quando Genoa perde c'è gente che diventa protagonista e sta molto bene. Gasperini ha fatto nome e cognome, io volevo fare una maglietta, io sto con Gasp. Pierluigi. Ho visto su Twitter che qualcuno ce la vuole spedire. Sì, io conosco veramente poco la situazione e da quello che ho capito sono fra l'altro tre persone, tre nomi che ha fatto, molto diverse, nel senso che credo due siano rappresentanti, credo, potrei sbagliarmi, di gruppi della gradinata, mentre uno è il presidente della federazione dei club, quindi mi sembra un tema tecnico, non mi sembra un tema di ordine pubblico. Da come l'ha detto Gasperini, no? Cioè è riferito al famoso striscione e alla contestazione di una parte dei tifosi. Sicuramente ha avuto coraggio da questo punto di vista. Certo. Se uno una cosa la pensa e la dice, onore a uno che una cosa la pensa e la dice, poi la situazione nello specifico non la conosco, certo. Che ci possano essere, ma in questa situazione, persone, ma questo vale anche per noi giornalisti, che a un certo punto, perché prendono un certo tipo di posizione o perché possono avere più visibilità, smettono di tifare in maniera autentica per una squadra, questo ci sta, non mi sorprenderebbe, ma ripeto, non conosco la situazione del Genoa. Stefano? Ma secondo me io condivido e sto sicuramente dalla parte del Gasp. Io ho vissuto momenti difficili a Genova e so della tifoseria che può essere il dodicesimo uomo in campo, come invece essere una parte negativa di quello che è un percorso della squadra, perché se il tifoso vuol fare il tifoso c'è bisogno quando le cose vanno meno bene, anche perché già ci sono delle problematiche che poi se vediamo il percorso del Genoa è stato che le prime 5 partite ha giocato sempre per almeno un tempo in 10 uomini e 9 uomini, se no non avrebbe mai trovato difficoltà. E poi avere un giocatore come Gasperini, un allenatore come Gasperini che insegna calcio, che ha sempre fatto bene, io penso che c'è solo da dare la possibilità a lui di continuare, ma certamente se poi ci sono certi tifosi che impediscono certe cose, dispiace, è giusto che a volte ci si esponga così, come ha fatto lui, bravo. Anche perché secondo me il tifoso, se è il vero tifoso, quando vuol venire paga il biglietto, chiaro, e cerca chiaro di applaudire, se no se ne sta a casa, e quello secondo me può fare così il bene del genere. Certamente, poi qui è chiaro che Gasperini fa nome e cognome di tifosi che guidano e in qualche caso governano quella fazione, insomma, quindi non sono nomi di tifosi qualunque, di quelli che comprano biglietto, normali clienti dello stadio. Stefano Aragno, ti ringrazio. Figurati, alla prossima. Ciao Stefano. Buona giornata. Rispondiamo insieme a Tommaso da Ragusa, poi ti lascio a tic-taccheggiare. Tommaso, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Allora, io sono un tifoso interista, però voglio essere meno diciamo così, pessimista di chi mi ha preceduto. Siete ancora in corsa per lo scudetto? Ma allora, io cerco di essere equilibrato e sono contento di parlare con lei e anche col dottor Pardo, siete delle persone oltre che competenti anche molto equilibrate, oggi è una cosa un po' rara nel mondo del giornalismo sportivo. No, spiego il motivo, voi siete stati sempre quei piedi di piombo in questi mesi nel sopravvalutare l'Inter, no? Perché a fronte dei risultati, diciamo così, di cinismo, come è stato sempre definito, il gioco è sempre latitato. E voi, io devo dire che avete sempre fatto emergere questa situazione, a differenza di vostri colleghi, vabbè, che invece... Lasciamo stare i confronti, dica cosa pensa dell'Inter. Allora, penso dell'Inter che praticamente con questo gioco sicuramente gli 1-0 non potranno sempre venire e non possiamo sempre stare nella speranza, diciamo così, di un Handanovic che possa salvare 4-5 palle gol a partita. Però guardo anche la squadra dell'Inter e dico che sicuramente i giocatori ci sono, probabilmente Mancini sta perdendo più tempo di quello che era doveroso per dare in gioco alla squadra, però 40 punti abbiamo messo in sacchetta. Ma, no, ma è chiaro, ma in questo ha ragione Pardo, quei 40 punti non sono frutto della fortuna. Ma che scherzi, insomma, ma l'Inter sta facendo anche qui, no, il solito discorso di sfumature. Cioè, io penso che l'Inter stia facendo una grande stagione e non ho mai pensato, e non lo penso oggi, che l'Inter potesse vincere il campionato, anche se a un certo punto, ti dico la verità, ho sospeso il giudizio, nel senso che non la capivo fino in fondo. La squadra è comunque una squadra che vince 8 volte, 9 volte, 1-0, poche volte in maniera brillante, spesso con dei miracoli da parte del portiere, insomma, alla fine sì, ti dà una sensazione che prima o poi possa girare la ruota. Certo, è vero che se adesso deve uscire da questo momento, caso, no? deve uscire da questo momento, vedremo come uscirà da questo momento, perché la chiave è sempre questa, come esci dai momenti di difficoltà. Pier, ti saluto, di che parli stasera in un secondo? C'è il professor Cassano. C'è il professor Cassano, 23-20, Italia 1, e però parliamo ovviamente di tutto, di Dybala, di Higuain, parleremo anche di questa storia di Genova con Gasperini, poi ci sono tanti ospiti, c'è Mughini, c'è Francesca Brienza, c'è Zampini, c'è Franco Ordine, c'è quindi, Massimo Ciavarro, quindi, di The Bills. Ci siamo. Salutami il dottor Cassano, ne parliamo domani. Ciao Pier, ciao, un abbraccio. Bravo Jet, comportati bene. Mi comporto bene, però ci provo. Intanto dopo GR ci ritroviamo. Ciao Parto, ti voglio bene. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Convocati. Tutti convocati, ragazzi. 800240024 è il numero verde, 349-238-6666 per messaggi SMS e WhatsApp. Avete sentito anche le ultimissime su WhatsApp nel giornale radio. Augusto da Genova e Paolo da Isernia, i prossimi due ascoltatori. Poi parleremo anche di mercato, state tranquilli, parleremo di un sacco di altre cose oggi come nei giorni che verranno. Augusto, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per l'ospitalità. Non so se vuol parlare del Genoa, dei tifosi del Genoa o di un campionato che è... Purtroppo non dei tifosi, di alcuni personaggi. Allora, prima di far questo mi dica se... proviamo a divagare. Il campionato è un duello a due Napoli-Juventus? Al 90%, no? Sì. Al 90%, va bene. Al 90% non vedo squadre attrezzate come la Juve... E con un attacco stellare come il Napoli, anche se forse la difesa non è a livello. Speriamo di arrivare il più a lungo possibile con questo duello, il più avanti possibile con questo duello. Sì, ma penso di sì. Dica. Ecco, io purtroppo parlo di un fatto qui che sta avvenendo a Genova, nel campo genoano, perché ci sono alcuni elementi che si proclamano capo gli ultras. Che hanno minacciato già da tempo un po' il presidente, ma per di più minacciano un allenatore che qui a Genova ha fatto sempre benissimo, ha salvato anche il bilancio spesso del Genoa perché gli ha rivalutato giocatori a costo zero, rivenduti a 100. Beh, Gasperini con tutte le dovute proporzioni, i dovuti limiti, è il Ferguson del certo. Genoa di questi ha detto ultimi... bene perché 10 ma non anni, solo, indiscutibilmente. Ma non solo, indiscutibilmente. Ma poi questi personaggi hanno già dei precedenti, perché erano quelli che fecero il famoso invasione dei distinti certo, della, ma infatti, di Marassi ma, inf- ma, poi, ma poi Gasperini ha fatto esplicito riferimento anche a quell'episodio che purtroppo non dimenticheremo mai, della richiesta delle magliette dopo quel derby perso. Quindi... ci sono fatti specifici, nomi e cognomi, poi non sono, ripeto, quanto ho detto prima anche con Pardo De Ranio, non si tratta soltanto del tifoso dissenziente, cioè di quello che va allo stadio e non gradisce lo spettacolo, la posizione di classifica. Qui si tratta di altri affari, e non uso a caso questa parola, ed è una situazione che a Roma, ad esempio, su entrambi i fronti conoscono benissimo. perché insomma ieri c'è stata una risposta all'Olimpico da parte della tifoseria romanista e la risposta sta in questo numero: 29.709 spettatori, 6.003 paganti. Quarto peggior risultato della stagione, il primo era stato proprio col Genoa a 28.133 e naturalmente stiamo contando anche le quote abbonati, quindi la curva era vuota, c'è stata una rivoluzione in settimana con il ritorno di Spalletti, tecnico che era stato molto amato a Roma, quindi mi sembra evidente che quanto sta succedendo a Roma non ha alcuna valenza tecnica, cioè non è una questione di squadra o di risultati, è qualcosa di molto diverso e di molto più profondo. Ieri non sono state casuali le parole di Pallotta quando ha detto vendere la squadra no, mi viene da ridere. Non credo che gli venga da ridere, credo che sia in atto un braccio di ferro a Genova, a Roma, come a Genova in questo caso, come in molti altri posti. E io, ripeto, vorrei una maglietta, anzi se qualcuno me la vuole mandare così facciamo prima, o se no la faccio fare tutti i convocati, io sto con Gasp, però in realtà è la mia opinione, non quella di tutti i convocati, quindi Carlo Genta, io sto con Gasp. Ci può stare. Paolo Isernia, buongiorno. Buongiorno Carlo, grazie per avermi convocato. Grazie. Senti, a lei. La domanda è questa a proposito di Napoli-Juve, cioè secondo te il fattore tecnico può sopperire all'enorme divario economico tra le due squadre? Cioè, parliamo di una squadra che è prima in classifica, però la seconda ha speso oltre 90 milioni di euro. Sì, però Paolo, l'estratto conto non va in campo. Sì? Tu ti ricordi negli ultimi 20 anni una squadra che ha vinto con l'estratto, un enorme divario economico? Ma l'estratto conto non va in campo, va in campo un valore che nel Napoli è molto elevato. Io credo che se il Napoli riuscirà ad allungare in maniera produttiva, in maniera significativa le rotazioni già in questa stagione, magari giocandosi l'all-in come ha fatto l'Inter, come hanno fatto molti altri, proprio per sfruttare la situazione nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, nei prossimi giorni ancora sentiremo parlare di nomi importanti. Per essere chiari, se Napoli riuscisse ad allungare la rosa con due giocatori di livello, ad esempio Kramer e Maximovic, cosa molto difficile anche dal punto di vista economico, allora a quel punto varrebbe la pena, anzi vale già la pena di cavalcare l'onda di questa squadra che sembra una squadra in missione e che ha certamente un giocatore in missione, perché 20 gol in 20 partite sono numeri pazzeschi. Non voglio dire o quest'anno o mai più, perché è eccessivo, però io credo che il Napoli possa davvero contendere alla Juventus lo scudetto fino in fondo, non so fino a quando, ma fino in fondo, e credo ugualmente che sarà un duello a due, anche se l'Inter, davanti alla quale mi tolgo il cappello per quanto ha fatto fino adesso, tifosi interisti potete dire quello che volete, però vi sfido a dirmi, sfido ciascuno di voi a dirmi chi non avrebbe firmato dopo 20 giornate ad essere a 4 punti dalla prima in classifica, chi di voi? Quindi l'Inter sta facendo una grande stagione, mi auguro che l'Inter possa rimanere aggrappata al tetto del treno scudetto il più a lungo possibile, perché ci divertiremmo di più. Giulio Piacenza, buongiorno. Sì, buongiorno, sono interista, raccolgo la sfida, ma sono pronto a firmare da subito per quello che sta facendo l'Inter fino a qui, anche se sono ovviamente deluso dalle ultime partite, da Lazio in poi. È ovvio che la qualità dei giocatori, soprattutto centrocampo, è quella, e squadre tipo Juventus, Roma e Napoli, a mio avviso, dall'inizio erano già più attrezzate per i primi tre posti. L'Inter doveva sfruttare la stagione eventualmente negativa di una di queste tre. Al momento la Roma è dietro, speriamo che riprenda la rincorsa e i risultati positivi, nonostante il gioco non brillante, per poter arrivare nella Champions. Vincere francamente non ci ho mai creduto, però ma sono anche soddisfatto qui, Giulio, vediamo sul mercato, anche perché l'Inter ha rotazioni molto profonde, quindi l'Inter è una squadra certamente migliorabile, ma che ha una sua identità. Cioè, io non sono d'accordo con chi dice che l'Inter non si capisce bene cosa sia, perché l'Inter è una squadra estremamente solida che si basa, diciamo, stare l'errore di Mourinho nell'ultima partita su una coppia eccellente al centro difesa, Miranda e Mourinho, che è strutturata su un centrocampo molto fisico e che sta trovando in questo momento, e credo che questa sia una delle chiavi, delle difficoltà di produzione di gol, delle difficoltà di qualità in avanti, anche perché onestamente un'eclissi così lunga di Jovetic io non me l'aspettavo. Sta facendo a meno di Jovetic, che era stato il giocatore nei disegni e nei piani in grado di trasformare il voltaggio dell'attacco dell'Inter. Adesso parte del lavoro di Jovetic lo sta facendo Ljajic, ma questo non è sufficiente. Icardi certamente può fare più di quanto stia facendo ora. I margini di miglioramento secondo me sono ancora significativi. Vediamo cosa esce dal mercato e soprattutto vedremo in questo momento l'abilità di Mancini, perché ogni squadra in corsa per lo scudetto attraversa dei momenti di difficoltà. La Juventus all'inizio, il Napoli in parte all'inizio, e magari qualche difficoltà arriverà, però bisogna vedere come si esce da questo momento difficile. Un amico in linea, Carlo Pallavicino, notissimo procuratore ed editore di uno dei siti Bibbia Cult per i seguaci del calciomercato, calciomercato.com. Ciao Carlo. Ciao carissimo, come stai? Non c'è male, tu? Bene, bene, bene. Stiamo discutendo su, insomma, duello a due, Juventus-Napoli oppure anche l'Inter ancora in corsa. E io stavo dicendo che sia per il Napoli, che deve allungare un po' le sue rotazioni anche dal punto di vista qualitativo, che per l'Inter molto dipenderà anche da questo mercato, Carlo. Beh, direi di sì, o perlomeno, visto che fino ad oggi non è riuscita l'Inter a fare il vuoto, a riuscire a guadagnare terreno che la partenza rallentata, soprattutto la Juve, avrebbe permesso, è chiaro che ci sarà di nuovo la volontà di andare a migliorare la rosa, anche se oggettivamente io credo che la rosa dell'Inter sia più che competitiva già così, e in qualche maniera sarebbe stato necessario fin già da adesso di avere delle certezze maggiori. Ecco, vede dei vizi di qualità a centrocampo. Sì, ma i vizi comunque sono iniziali, perché non è che ci fosse qualcuno che si aspettava di avere una squadra di piedi buoni a centrocampo. Era una squadra impostata per essere in questo modo, e in questo modo è. Secondo me i vizi non sono solo di piedi buoni, ma sono di comunque non essere riusciti ancora a trovare un giusto equilibrio tra qualità e quantità. Sono d'accordo. È una squadra che ha troppe possibilità e ne ha messe in campo troppe poche. A me poi sembra che davvero questo mercato, contrariamente magari agli interessi di ognuno di noi, finisca per rappresentare un alibi e comunque una porta girevole che non aiuta a creare i gruppi, a creare gli assemblaggi giusti, e anzi rappresenta un alibi per i calciatori e anche forse per i loro procuratori, che poi alla fine ogni volta cercano da qualche altra parte una soluzione che invece andrebbe cercata sempre più dove hai deciso di andare a giocare. Certo, certo. Allora Carlo, visto che il tema è questo, vorrei che tu rispondessi a queste voci che ti faccio ascoltare, che sono quelle di Sarri, di De Laurentiis e poi di Paolo Sosa. Cominciamo da Sarri. Dovrei parlare su una congettura, su un'ipotesi, senza neanche sapere i nomi, ma non mi interessa, sinceramente a me non mi interessa. Io ho 8 difensori e 6 centrocampisti, sto lavorando su questi e il mercato per me è solo una grande turbativa. Questo era Sarri, che ha ribadito ieri un concetto già espresso nei giorni scorsi. De Laurentiis. Si figuri d'inverno, quando non c'è nessun tipo di sosta preparatoria, avere dei nuovi giocatori da inserire quando si gioca anche 3 volte a settimana e non si ha il tempo nemmeno di fare le dovute verifiche, di che cosa parliamo? Parliamo del nulla, parliamo di un cazzeggio che piace a tutti quanti, tanto per scrivere qualche cosa o tanto per riempire di notizie i contenitori preposti a fornirle. Benissimo, questo De Laurentiis, e adesso Paolo Sosa dopo la sconfitta con il Milan. Dopo dipende molto dei giocatori che hai, e dopo stiamo arrivando anche in un momento Da una parte hai sempre il disturbo di questo momento di mercato, cioè tu sai benissimo quanto pesa. Dall'altra parte, quando hai certi giocatori che non si sono, cioè se gli provochi, se vai a fare un cambio anche di moduli, di dinamiche, li mette ancora più in difficoltà. Allora, Carlo Pallavicino, rispondi a loro, signori? Sì, rispondo dicendo che sfondano non delle porte, dei portoni. Io sono nato e cresciuto all'epoca del mercato di riparazione di novembre. Che e abbiamo più o meno la stessa età. Esatto, durava due settimane, serviva a rimpiazzare un giocatore perché ci poteva stare di solito un giocatore che andava a completare la rosa e a quel punto si giocava tutta la stagione. Io che oggi ci sia questa finestra di un mese folle, nella quale peraltro ci si riduce tutti all'ultimo giorno, come d'estate peraltro, col campionato aperto, con tre mesi e mezzo / quattro ancora davanti, quando veramente non c'è più tempo per fare niente, è soltanto, appunto, come dice il nostro caro De Laurenti, il cazzeggio. Quindi poso in pieno questa teoria. Devo dire, il mercato aperto l'ha voluto a suo tempo la FIFA e non mi sorprende, però ripeto, è una cosa che non ha niente a che vedere con lo sport, con l'agonismo e con anche a questo punto direi anche con il regolamento, perché sono campionati che rischiano di diventare falsati. Non si può stare un mese e mezzo, perché si comincia già dall'inizio di dicembre a parlare di giocatori che se ne andranno, che potrebbero cambiare squadra e addirittura quando poi viene impiegato un giocatore che è in procinto di partire si fanno mille congetture. Quindi per me è tutto veramente sbagliato, ma lo è sbagliato anche l'estate, perché l'estate dovrebbe finire al 15 luglio e così le squadre partirebbero per il ritiro con i giocatori giusti. Questo lo dico io che sono agente, che sono editore. Infatti. Quindi tendenzialmente contro i tuoi interessi. Contro tutti i miei interessi. Mi spieghi un'altra cosa? Visto che sei vicino a quell'ambiente, che lo conosci molto bene, non solo per origine geografica, le contestazioni che ho letto oggi nei confronti dei della Valle, a me sembrano una follia. Sì, questa realtà è figlia della frustrazione. Sentite? Sì, ti sento, Carlo. Figlia della frustrazione. Ma scusami, frustrazione di che? Di cosa? No, frustrazione di una città che non vince da 50 anni, però è una frustrazione purtroppo legata al fatto che Firenze non potrà più vincere, come non potrà più vincere Genova, non potrà più vincere nessuna squadra, a meno che non avvenga veramente un qualcosa di unico e di epico. E abbiamo visto che anche quest'anno, malgrado la Juventus fosse partita in ritardo, in realtà è già quasi in testa, solo Higuain sta tenendo le testa. Quindi la realtà dei fatti è che se le grandi squadre si organizzano come si sta organizzando bene la Juve in questo momento, i campionati non hanno la possibilità di essere equilibrati, e chiedere a delle proprietà comunque, voglio dire, presenti come sono i della Valle o come peraltro lo sono stati altri presidenti di squadre di medio-alta classifica, di svenarsi o di debitarsi, e questo è un qualcosa che non gli si può chiedere. Detto questo, dobbiamo anche considerare che in un modo o nell'altro alla Fiorentina è mancata sempre un po' di comunicazione, perché se ricordi già da Prandelli, per passare per Montella e arrivare oggi a Paolo Sosa, nel momento in cui tutti si auguravano e si aspettavano un piccolo salto di qualità, è sembrato sempre che la società non abbia avuto il coraggio di dire: no, guardate, anche noi stati qualità non lo faremo mai. Siamo e restiamo un Udinese di lusso, se così possiamo dire, e se vi va bene, se no, noi coi soldi nostri facciamo quello che vogliamo. E questo è un qualcosa di stralegittimo, che però a livello comunicativo non è mai emerso in maniera talmente chiara da togliere qualunque tipo di illusione. D'altra parte, io la penso esattamente come Pardo, ma penso sia un pensiero comune. Prima leggevo la classifica del campionato francese, cioè Paris Saint-Germain che ha 21 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, che è il Monaco. Quindi questo è uno status che risiede in ogni paese d'Europa. L'Inghilterra è un caso a parte per per altri motivi, ma anche lì non è che si vada molto al di fuori della cerchia ristretta e dello stagno delle solite corazzate. Carlo, un'ultima cosa, ma secondo te, ti faccio una domanda tecnica, lo sostengo da qualche giorno, ma se in questo momento il Napoli, che ha l'oggettiva possibilità di competere con la Juventus per lo scudetto, al di là di tutto quello che abbiamo detto sul mercato invernale eccetera, mercato invernale che non ha mai visto dei movimenti in grado di cambiare destini di qualcuno, però se il Napoli dovesse riuscire ad allungare in maniera qualitativa la rosa, e faccio gli stessi nomi, Kramer e Maximovic, che ho fatto nei giorni scorsi, non avrebbe oggettivamente maggiori possibilità in questa corsa? Sì, però al solito è da capire se l'arrivo di un giocatore può anche sovvertire alcuni equilibri. È una macchina talmente perfetta che mi viene in mente, parlavamo di Fiorentina. Fiorentina, quando arrivò Edmundo a Firenze, un autentico campione, sì, che faceva 5 gol a partita, aveva giocatori eccezionali all'attacco. Edmundo portò qualcosa in più, ma portò anche tanti problemi poi di spogliatoio. Ora non dico che questi giocatori debbano portare dei problemi, però io tendo a dare fiducia a Sarri, a dire che se lui è contento con questo gruppo e con questa situazione, spesso i campionati si vincono anche proprio avendo ormai stabilito un gruppo sul quale fare affidamento e sul quale ormai ci sono le giuste anche alternative. Grazie Carlo, buon lavoro. Salutami Pardo. Te lo saluto, lo vedo domani. Domani dovrebbe passare da queste parti. Grazie. Allora gli devi dire da Paradao e Giovanella. Va bene, sarà fatto. Ciao. Assolutamente e in maniera pubblica. Grazie Carlo Pallavicino. Nicola Udine, buongiorno. Buongiorno a tutti, onorato per la convocazione. Io ho due domande, una sull'Inter, sulle poche speranze, ma mi avete già abbondantemente risposto durante la trasmissione. La seconda era, come vedete il campionato dell'Udinese, visto che io considero Colantuono un allenatore non adatto a questa squadra. Grazie a tutti. Grazie a lei. Il campionato dell'Udinese lo considero grosso modo in linea con le aspettative. Secondo me invece Colantuono è adatto. L'Udinese però ci ha abituato nel corso degli anni con molti allenatori. A proposito, in bocca al lupo a Guidolin, che emigra in Inghilterra allo Swansea, a campionati di assoluta eccellenza alternati a seconda dell'organico e delle operazioni di mercato a campionati di profilo un po' più basso, e questo mi sembra uno di quelli in linea con l'organico che ha in questo momento l'Udinese. Enrico Trento, buongiorno. Buongiorno, volevo dire sulle curve, ci vorrebbe che le procure indagassero di più su certi tifosi. Ma sanno tutto le procure, Enrico, tutto sa tutto, tutti sanno tutto, è inutile. È un po' il segreto di Pulcinella questo, che esiste dei rapporti perversi tra le società e le curve. Provi a contare gli spettatori nelle curve dell'Olimpico quando giocano la Roma e la Lazio. Chiaro. Quindi cioè, è una verità sottaciuta che tutti conosciamo. Rinnovo l'invito, io sto con il Gasp, e se qualcuno vuole mandarmi la maglietta, non una pallottola, la maglietta, io sto con Gasperini, perché quello che ha detto lui ieri è stato un atto di estremo coraggio, e in qualche modo ha reso pubblica appunto questa questione, per cui esiste un segreto di Pulcinella di cui facciamo finta di non accorgerci, di cui facciamo fatica a parlare anche per non farci dei nemici pericolosi, però è una verità che sta sotto gli occhi di tutti. Abbiamo una settimana per parlare di un sacco di temi, compreso Valentino Rossi, che oggi ha detto: presentazione nuova Yamaha, starò qui fino alla fine della mia carriera, spero ancora lunga. Torneremo a parlare della Roma, di Spalletti, di Gasperini, della corsa scudetto. Insomma, abbiamo tempo, ragazzi, tutta la settimana, tutti convocati per tutta la settimana, come sempre. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, e Federico Bini in redazione. Ciao. Ciao, aiuto.